Siamo con Olmo Amato e Samuele Sestieri, benvenuti intanto. Registi del film I racconti dell'orso, ci descrivete brevemente il film? Allora, il film parte da un viaggio che io e Olmo abbiamo fatto nell'estate del 2013, partendo dalla Finlandia e arrivando fino alla Norvegia. Il film parte senza una sceneggiatura, ma si è andato sviluppando praticamente in progress. Mentre eravamo in viaggio, ci siamo resi conto che le immagini che giravamo potevano portarci a una storia, a una narrazione, che poi di fatto però è nata a montaggio. Il grande handicap dal momento che era un film da girare soltanto in due era come far recitare, chi far recitare. Proprio per quello tutto è nato dal momento che noi ci siamo detti non siamo degli attori, dobbiamo camuffarci. Quindi di fatto ci siamo attrezzati, ci siamo travestiti da questi due personaggi che sono questo omino completamente rosso e questo monaco robot, questo monaco meccanico. E siamo partiti con due costumi e quello è stato l'inizio del film. Dopodiché, abbiamo girato per circa 40 giorni tra la Finlandia e la Norvegia, siamo tornati a Roma con un materiale che ha avuto bisogno di un lungo periodo di montaggio, parliamo di circa 2 anni di post-produzione. E poi finalmente, dopo 2 anni, siamo riusciti a finire questo film e a portarlo all'inizio. La prima proiezione è stata a Torino, al Festival di Torino del 2015. Che tipo di racconto avete sviluppato a partire da queste due figure? Noi volevamo raccontare la storia di un mondo che sembrava come abbandonato dagli uomini. Nel film, appunto, abbiamo paesaggi desertici, che erano i primi paesaggi che il grande nord ci evocava. Quindi era l'idea di mettere questi due personaggi dalle fattezze, in qualche modo, anzi direi dai corpi umani, che proprio per noia, perché si sentono soli, decidono di incominciare a giocare. È il gioco più vecchio del mondo, un gioco ad inseguimento, finché a un certo punto non trovano un orsetto e cercano di prendersi, che è un peluche appunto, e cercano di prendersi cura di lui e provano a riformare quella che è una sorta di nucleo familiare. Vedendo le immagini del trailer, la prima cosa che balza agli occhi è l'eleganza formale. A questo punto vi chiedo quali sono i vostri riferimenti estetici ed artistici? Guarda, siamo entrambi due cinefili, ma mentre eravamo là in Finlandia, dal momento che, come vi dicevamo, tutto è nato in una maniera piuttosto spontanea, non abbiamo mai pensato mentre giravamo di citare qualcosa o un riferimento piuttosto con l'altro. Poi certamente ci sono dei riferimenti inconsci, noi siamo innamorati di certo cinema d'animazione, ma che va dalla Disney al cinema giapponese, il cinema di Takahata, di Miyazaki. E anche se appunto non c'è mai stato, direi, qualcosa di più diretto, se non la voglia di provare noi a metterci di fronte a dei paesaggi che ci evocavano delle immagini diverse da quelle da cui siamo abituati in Italia. Allora, abbiamo detto che nel 2015 c'è stata la presentazione a Torino. Da allora in poi che è successo? Diciamo, Torino, la grande fortuna di essere in concorso al Festival di Torino ci ha dato la possibilità ovviamente di avere di base già di partenza un grande pubblico e un grande interesse che c'è stato intorno al film. Da quel momento poi siamo andati al Festival di Rotterdam all'inizio del 2016 e poi abbiamo girato il film, ha girato per una serie di festival sia italiani sia internazionali, europei, che addirittura oltreoceano. Quindi sicuramente la prima proiezione di Torino ha aiutato il film non poco in questo suo percorso. E dopo 2 anni riuscire a vedere ovviamente il film, a portare il film nelle sale italiane è per noi. Per noi e per il fatto semplicemente che questo film è un film piccolo, nato con pochi mezzi, riuscire ad arrivare a questo risultato è già tantissimo. Allora, un'uscita in tour, immagino con proiezioni accompagnate dalla vostra presenza. Ecco, che tipo di distribuzione avete immaginato? Allora, prima di tutto, chiaramente è una distribuzione a evento, ovviamente abbiamo cercato di far circolare il film in una serie di sale e di città che ci interessavano appunto e dove abbiamo trovato la disponibilità. Usciamo con Milano Film Network in collaborazione con Vivo Film. Un film del genere, oggi, soprattutto in Italia, difficilmente poteva uscire in una maniera differente. Quello che ci interessa è esserci a queste proiezioni perché pensiamo che un film del genere viva anche nel rapporto appunto diretto con i suoi spettatori. È un film che nasce, abbiamo detto, anche da una grossa operazione di crowdfunding e per esempio la proiezione romana sarà proprio l'occasione in qualche modo per riportare il film a casa e per far vedere a tutte le persone, gli amici, i familiari che ci hanno sostenuto, fargli vedere quello che con pochi soldi siamo riusciti a mettere su, nel bene o nel male. Ci date anche tutti i riferimenti web per saperne di più anche rispetto al calendario di proiezioni? Allora, sicuramente sulla nostra pagina Facebook, i racconti dell'orso sarà aggiornata costantemente di tutte le date e di tutti gli appuntamenti. Poi c'è anche il sito internet www.iraccontidellorso.it. In cui inseriremo il calendario di eventi. Quindi tra Facebook e il sito potrete trovare tutte le date e tutte le proiezioni che ci saranno. Ancora a oggi non abbiamo postato il calendario definitivo perché stiamo finendo di raccogliere le ultime sale. Per adesso l'evento principale su cui stiamo puntando è questa proiezione di Roma e dopodiché inizieremo il vero e proprio tour. Benissimo, allora ricordiamo il film I racconti dell'orso, regia di Olmo Amato e Samuele Sestieri, che ringraziamo, salutiamo, a risentirci presto.